Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. L'unico limite che un buon tecnico industriale conosce in fatto di risparmio energetico è la propria fantasia, o almeno così si dice. Infatti è tale il numero e la varietà dei processi industriali da rendere molto difficile ridurre a un numero chiuso e limitato le opportunità di risparmio energetico. Allora stasera parliamo di due opportunità, appunto, che non si presentano molto spesso ma che tuttavia possono rivelarsi interessanti nei casi in cui è possibile metterle in campo. Parliamo della compressione del vapore e del recupero di energia dalle condotte del gas. Vediamo di che cosa si tratta. Ci aiuta a decifrare il tutto Nino Di Franco, esperto di risparmio energetico industriale dell'Enea, che è tornato a trovarci. Buonasera Di Franco. Buonasera a lei, Maurizio Melis. Allora, io direi, cominciamo col gas. Allora, l'opportunità di poter recuperare energia dalla decompressione del gas si pone principalmente per le aziende distributrici di gas. Costoro si trovano a dover gestire reti ad alta pressione, in cui il gas si trova, diciamo, 50-70 atmosfere, e doverlo distribuire alle singole unità familiari o alle singole utenze finali a pressioni molto più basse. Certo. Normalmente questo si attua attraverso delle valvole laminatrici, ossia sono semplici valvole che strozzano la sezione della tubazione in maniera tale da far crollare la pressione. Un po' come si fa col rubinetto di casa, esattamente, esattamente. Una valvola non è altro che un rubinetto che strozza la sezione di mandato del gas, la pressione crolla, ma questo avviene a fronte di un grave dispendio energetico, una grave dissipazione energetica. L'energia che è stata spesa per poter mettere in pressione il gas viene completamente dissipata in questo modo, certo. L'intervento consiste dunque nel mettere al posto della valvola laminatrice un turbo espansore, una turbina che sfrutta il salto di pressione per poter mettere in rotazione un albero accoppiato a un alternatore, il quale produce energia elettrica. Questa energia elettrica si trova disponibile praticamente gratuitamente, ovviamente una volta realizzato l'investimento. Certo. Ecco, a proposito di investimento, i tempi di ritorno di un'operazione di questo genere di che tipo sono? I tempi di ritorno non sono immediati, in quanto si parla sempre di 10-13 anni come tempo di ritorno. Mediamente lungo. Sono macchinari abbastanza costosi perché molto delicati, con tolleranze molto stringenti. Pur tuttavia ormai è diventato un intervento praticamente standard che le grandi imprese distributrici vanno sempre di più realizzando presso le proprie cabine di compressione, anche perché in questo periodo questo intervento è finanziabile attraverso il meccanismo dei certificati bianchi. D'accordo, che sono i titoli appunto che vengono riconosciuti quando uno fa un'operazione di efficientamento energetico. Esattamente. Parliamo di vapore invece, che cosa si può fare in questo caso? Qual è la problematica? Nel caso del vapore la problematica potrebbe essere la seguente, che spesso in molti cicli produttivi serve vapore, diciamo, a media pressione. Mm-hmm. Una volta che il vapore ha completato il suo ciclo, ossia ha acceso il calore di cui è pieno, sì, si ritrova alla fine del ciclo produttivo vapore a bassa pressione. Tipicamente questo vapore è un vapore di scarto che viene o gettato in atmosfera oppure recuperato attraverso un complesso ciclo di condensazione e reinvio alla centrale termica. D'accordo. Quindi allora, condensato, quindi ritrasformato in liquido, poi il liquido viene mandato alla centrale termica che lo fa rievaporare e ricomincia il giro. Secondo ciclo è molto dispendioso energeticamente, certo, laddove si confrontasse questo ciclo chiamato standard con la ricompressione del vapore, ossia io posso recuperare il vapore a bassa pressione esausto e ricomprimerlo in un compressore come se fosse aria e quindi riportarlo alle condizioni di media pressione che sono quelle necessarie per il ciclo produttivo e rinviarlo nuovamente alla sua utilizzazione. Questo perché il vapore, come tutti i gas, quando viene compresso si scalda anche. Una domanda, ma in questi casi si sostituisce di fatto un uso, diciamo, di combustibile con un consumo di energia elettrica, quella che serve per far andare il compressore? Come mai in questo caso è conveniente? Perché di solito invece si preferisce fare il contrario. Questa è un'osservazione giusta. Si tenga però presente che portare allo stato di vapore un liquido è un'operazione energeticamente molto dispendiosa perché bisogna trasferire al liquido tutto il calore di vaporizzazione, che è una entità molto elevata. Nel caso della ricompressione, viceversa, dobbiamo sottoporre il vapore a una semplice compressione senza cambiamento di stato e il contenuto energetico di una simile operazione è molto più basso, stiamo parlando del 5-10%. Quindi poter ricomprimere il vapore significa poter risparmiare dall'80 al 90% dell'energia che un ciclo convenzionale viceversa avrebbe richiesto, un ciclo convenzionale termico, utilizzato da caldaia. Sì. Va bene allora, grazie Di Franco. Buonasera a tutti allora. Va bene, Mr. Kilowatt si chiude qui, domani parliamo di altre tecniche non convenzionali per risparmiare energia nell'industria, parleremo di infrarossi e microonde. Buona serata a tutti.